posso chiamare un mondo che crea qualcuno in grado di sparare alle stelle solo perché brillerò più forte oltre la morte. E si avvicina il giorno che ci faranno credere di essere sbarcati su Marte, così come hanno fatto finta di arrivare sulla Luna e fare ciao ciao con la manina. Per davvero. Dico sul serio. Non perderai una puntata della più grande soppopera del mondo, del mondo. Io non credo che Elvis sia morto. Io non credo che Elvis sia morto. Io non credo che Elvis sia morto. Io non credo che Elvis sia morto. Solo un altro splendido.